da una voglia di dimostrare che i giovani di Como non sono buoni soltanto a bersi mojito, a far casino la sera e a scrivere sui muri, ma che ci tengono ad avere degli spazi e che ci tengono a prendere su di loro delle responsabilità tali da poter influire sulle scelte politiche di una città in cui bene o male dovranno vivere in un futuro prossimo. Abbiamo iniziato chiedendoci di che cosa avesse bisogno la città in questo momento, e l'idea è che Como ha bisogno di un nuovo tipo di spazio per portare confronto, per portare dialogo, perché dopo un po' di anni di un'amministrazione abbastanza maldestra che ha soffocato questi spazi, ci teniamo a ribadire che noi giovani appunto vogliamo partecipare a questo dialogo, per cui oggi abbiamo invitato questi candidati alle primarie che si terranno il 27 novembre, il voto delle primarie. Possono partecipare tutti i cittadini dai 16 anni in su al voto. I candidati verranno intervistati su una serie di domande, su una serie di questioni riguardanti il loro programma, per cui siamo qua per ascoltare sia il loro programma sia però cercare di capire quanto possono essere aperti ad altre idee che vengono da fuori, in particolare dal pubblico, che avrà anche una sua voce oggi. In breve, come si svolgerà questo incontro? Allora, ci saranno 4 domande su 4 temi. I 4 temi saranno la presentazione dell'identità stessa del candidato, le politiche giovanili, le politiche di urbanistica e di spazi e la questione dell'offerta turistica della città. Per ognuna di queste domande ogni candidato avrà 4 minuti di tempo per rispondere. Alla fine di questi 4 minuti, in cui non potrà essere interrotto da nessuno, né dal pubblico né dagli altri candidati, ci saranno 10 minuti di dibattito tra di loro, visto che siamo tutti bravi a parlare da soli, ci tenevamo anche a sentire i vari candidati come riescono a interagire tra di loro, soprattutto cercare di capire il grado di apertura di ogni singolo candidato. Alla fine di questi dieci minuti di dibattito, che saranno lanciati da una domanda che avrà la facoltà di fare un candidato a un altro reciproco candidato, ci saranno altre domande. Alla fine di tutte queste 4 domande apriremo per gli interventi al pubblico che sarà presente alla fine del dibattito, avrà resistito al freddo e avrà la volontà di interagire con i candidati. Ok, adesso possiamo iniziare. Enrica gestirà la cosa, per cui passo la parola a lei. Buongiorno a tutti, adesso partiamo subito con una breve presentazione dei candidati, quindi lascerei subito la parola alla signora Gisella Introzzi. Buonasera, grazie, e grazie soprattutto ai giovani che hanno avuto la bella idea di organizzare questo incontro in un modo così inconsueto. Allora, devo solo presentarmi? La prima domanda è questa. Io non ci ho associato nient'altro. Io appunto mi chiamo Gisella Introzzi, sono nata e ho sempre vissuto a Como, ho 60 anni. Sono da pochissimi mesi in pensione dopo una vita lavorativa molto lunga, oltre 41 anni, quindi mi sono guadagnata senz'altro pienamente il diritto ad andare in pensione nonostante tutte le dispute attuali sulla riforma del sistema previdenziale, perché ho iniziato a lavorare molto giovane, a 18 anni. Ho avuto la fortuna, devo dire, di vivere, di essere giovane in un periodo in cui questa possibilità ancora c'era. Vi stavo raccontando un po' della mia vita. Appunto, ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare molto giovane e, ripeto, opportunità legata evidentemente ad altri tempi. Ho poi continuato gli studi e quindi mi sono laureata parallelamente all'attività lavorativa. L'altra cosa che facevo e che dico sempre mi ha consentito di fare studio e lavoro assieme è stato giocare a pallacanestro, perché era una cosa che mi consentiva di recuperare energie, liberando completamente la testa. Il mio lavoro è stato per... Ve l'ho raccontato, periodo... Vabbè, si sente? Quello là si sente. No, intanto che sostengo, io continuo. Periodo fortunato della pallacanestro, molto bello come divertimento e come abitudine della vita, sia a lottare per raggiungere dei risultati, sia a sapere stare assieme agli altri. È una caratteristica che sono poi portata dietro e che poi di fatto finisce con selezionare le persone con cui lavoro. Il mio lavoro è stato per tanti anni, per 18 anni e più, quindi ho raddoppiato la mia età, lavorando a Como, lavoravo in camera di commercio e mi occupavo soprattutto del mio studio, di ricerca, lavoro sui dati sulla situazione sociale, sulla situazione economica della città. Questo mi ha lasciato senz'altro un'abitudine a sapere interpretare, ad utilizzare le informazioni statistiche, a saperle utilizzare per capire cosa succede. Dopo 18 anni ho il desiderio di riuscire a sviluppare la mia attività, la mia professione, mi ha portato a decidere che valeva la pena anche di andare a lavorare, a essere meno comoda ed andare a lavorare a Milano. Quindi ho fatto un concorso in Camera di Commercio a Milano e poi da lì ho cambiato altri 3 posti di lavoro, occupandomi soprattutto di organizzazione e facendo attività e arrivando poi ad avere la responsabilità generale di una struttura che è l'Associazione Regionale delle Camere di Commercio. Il lavoro a Milano è stato un lavoro molto interessante perché è un ambiente, Milano da un punto di vista professionale attribuisce molto. Non ho mai abbandonato i legami con la mia città, anche perché la dimensione raccolta, i miei legami di amicizia eccetera, come sono una cosa importante a cui non ho mai rinunciato. Credo che posso chiudere, queste sono le cose più importanti. Ho finito appunto di lavorare a marzo con la prospettiva di tornare, avendo più tempo a disposizione, di occuparmi in un altro modo della mia città. E da questa disponibilità poi, in modo abbastanza imprevisto, è maturata questa occasione di candidarmi per le primarie del centro-sinistra. Grazie. Allora, come abbiamo voluto sperimentare, le cose alle volte funzionano, alle volte nostro malgrado non funziona. Abbiamo messo un grande investimento in queste cose, adesso siamo a doverci arrangiare, ma ci arrangiamo lo stesso, credo che sia la cosa più giusta. Quando ci sarà la tensione parleremo. Alcuni di voi mi conoscono, quelli che non mi conoscono hanno modo forse di vedermi oggi per la prima volta. Vi dico alcune cose brevissime. Allora, io sono Comasco, mi sono laureato in fisica a Pavia, dopo aver fatto fisica mi sono specializzato altre 2 volte in cose che hanno a che fare con la radiazione, con la radioattività, con tutte queste cose che nelle settimane passate, quando si parlava di Fukushima, hanno avuto a che fare con le vostre problemi. Ascolto anch'io. Vengo da un mondo che è il mondo dello scautismo, qualcuno non sa che cos'è, e questa cosa credo fortemente ha condizionato le mie scelte, che sono delle scelte di lavorare con i ragazzi, lavorare nella scuola, dove ho lavorato sempre, fino a quando nella operazione di riduzione che io ho fatto, sono incappato anch'io, che avendo anch'io contributi pagati dall'età di 18 anni, all'età di 58 anni sono stato invitato ad andarmene, malgrado abbia resistito davanti al giudice del lavoro e poi ancora un po' di soldi per tentare di continuare a fare un lavoro che amavo, è stato detto no grazie, quindi al di là delle cose che mi dicono sui giornali sono queste storie. Quindi ho dedicato la mia vita a questo mondo e poi ho fatto anch'io un'esperienza politica lunga, ho fatto come altri che sono qui e sono in Consiglio Comunale da moltissimi anni. La mia esperienza politica, quella nelle istituzioni, non quella fatta in altri modi, è legata a un movimento tutto comasco che è PACO, che vuol dire Progetto per Amministrare Como, che mi ha coinvolto all'origine della sua storia, alla quale sono rimasto sempre molto legato e fedele. Una delle mie caratteristiche fondamentali, proprio di indole, è quello di, come dire, usiamo la parola fedeltà, piace questa parola, non piace, la parola fedeltà. Tenete conto che io oggi sono vicepresidente nazionale del movimento Adulti Scout e sono entrato nello scoutismo all'età di 10 anni e sono ancora oggi legato a questo movimento. Questo ve la dice, insomma, della mia storia. Insomma, al Giovio io sono stato moltissimi anni e sono sempre stato al Giovio, salgo una piccolissima parentesi al Volta. Questo è un aspetto del mio carattere, insomma, cioè nel senso che io ritengo che le cose si fanno anche diventando competenti davvero, non come spesso si dice che tu devi sbocconcellare una cosa qua, una cosa là. Sono convinto, sono intimamente convinto che abitare le cose molto a lungo significa arrivare a conoscere in profondità quelle che sono le cose nascoste, che non si vedono subito, quelle che sono anche le fragilità, che non vanno temute. Le fragilità sono parte dell'esistenza e della storia. Noi non possiamo far finta di raccontarci che esiste un mondo facile in cui c'è qualcuno che domani risolve tutti i problemi, cosa che non è vero. Sappiamo invece che dobbiamo mettere di fronte a ciascuno di noi anche tutto ciò che ci rende in qualche modo persone ferite. Le nostre storie sono tutte in qualche modo ferite e solo partendo dalla consapevolezza che tutti siamo portatori di una qualche ferita riusciamo a cogliere le ferite degli altri. Questo è un aspetto fondamentale, per esempio, quando si vuole lavorare con dei ragazzi e io credo quando si vuole lavorare con le persone, perché soltanto partendo da lì, cioè partendo dal capire la sua ferita, tu riesci a costruire una relazione. C'è una cosa che in questa cultura va in maniera dominante, che è la cultura del merito. Io che ho lavorato con i ragazzi una vita intera ho molte serie obiezioni sulla cultura del merito. Sono le storie che costruiscono le persone e alle volte ci sono delle storie che sono storie molto faticose. Da questo punto di vista credo che soprattutto se si vuole una società nella quale si vive un po' meglio tutti, bisogna come dire, evitare di far diventare le mie risorse, le mie capacità qualcosa da spendere solo per me stesso. Questa è una bruttissima cosa che dobbiamo invece insieme superare. Le tue capacità, le tue ricchezze, le tue competenze sono per te ma sono per tutti. Credo che questo sia uno degli elementi fondamentali che caratterizza la mia sensibilità profonda. Partita. Siamo degli artisti. Facciamo finta. Magari funziona. Bene, ciao a tutti, io mi chiamo Mario Lucini, ho 53 anni, nato e vissuto a Como, ho fatto le scuole medie alla Parini quando era ancora qui in via Cesare Cantù, ho fatto il liceo Giovio facendo il passaggio da via Sirtori alla maternità dove siete tutti adesso, quelli che frequentano il Giovio. Sono geologo, libero professionista, ho costruito in questa città la mia famiglia, ho tre figli ai quali ho cercato di educare a una cittadinanza responsabile e solidale. Ho partecipato, per dire un po' le ragioni anche del come mai sono qui, negli anni 70 un'esperienza formativa molto ricca, molto importante, che è quella del Centro Giovanile San Filippo, con tanti altri amici, che ci ha fatto maturare l'esigenza di una sensibilità civica, di dar qualcosa alla città e agli altri. Alcuni dei miei amici hanno percorso strade di altro genere, altrettanto valide, altrettanto importanti, nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo ed altro. Io sono stato catturato a 27 anni dall'idea di poter dar qualcosa in ambito politico-amministrativo, quindi dal 1985 porto bene, dal 1985 sono entrato in circoscrizione ad Albate, Muggiacco e Nera, ho fatto per due mandati il presidente del consiglio di circoscrizione e ho cominciato lì ad imparare che la politica è fatica, è spesso scarsa gratificazione personale, ma è soprattutto ascolto, capacità di cogliere i bisogni delle persone, di sentire quello che sono i problemi presenti sul territorio e cercare di dare delle risposte giuste e corrette, che non consolidino privilegi ma diano risposte a domande vere. Dal 2002 sono in consiglio comunale e adesso ci accingiamo a questa avventura delle primarie per partecipare alla scelta del prossimo candidato sindaco per il centro-sinistra. Io direi che la sintesi c'è, non vi rubo altro tempo di presentazione e do la parola a Marcello. Non funziona. Buongiorno a tutti, allora io sono Marcello Iantorno e sono candidato anche io alle primarie. Sono attualmente consigliere comunale del Partito Democratico, qui al Comune. Sono avvocato e ho lo studio in città al Pubicino da circa 30 anni, lo studio in città. Sono anche membro del Consiglio di Avvocato. Sono di origine calabrese, sono nato a Cosenza, ho studiato al liceo di Cosenza, poi ho fatto l'università di scienze politiche, dove mi sono appunto laureato diversi anni fa, con professori molto famosi e conosciuti, come il quale Spadolini, con il quale ho fatto la storia di la tesi di storia contemporanea, poi con il professor Giovanni Sartori, ho avuto anche Mario Luzzi, che è mancato prima nostro, del Novecento e così tanti. Dopo Firenze ho scelto di venire ancora a Cosenza, che come dicono i fiorentini, Firenze non era venuto qua a noi, troppo turistico, forse sbarcato. E quindi sono sbarcato, fatto in Italia, provincia a Trieste, e poi sono sbarcato in provincia di Cosenza, dove ho insegnato ho insegnato al Plinio fino al 90-91, diritto ed economia a giovani come voi. Dopodiché nel frattempo, nell'83, mi sono laureato in giurisprudenza a Milano, dove ho avuto come professore il papà dell'attuale sindaco di Milano, Pisapia, poco alla fine. Dopodiché dal 91 ho fatto anche vicepresidente del Comitato Regionale di Controllo, che controllava gli atti dei locali, poi ho svolto la scuola regionale in città, come dicevo, come avvocato. Nel 2016 mi sono candidato al Consiglio Comunale di Como, sono stato eletto, ho fatto parte dell'opposizione. Sono sposato e ho due figli, più o meno della vostra età, un po' più giovani, forse un po' più grandi, probabilmente, di cui uno fa laureato con lui in giurisprudenza e l'altro è laureato in economia e fa il praticamente. Questo come biografia personale. Mi trovo bene, vivo qui oramai da 30 anni a Como, ovviamente io ritengo che Como sia una città sicuramente accogliente, forse i primi anni non lo era nei confronti delle persone che provenivano da altre parti d'Italia, c'era questa questione noi e loro, un po' come oggi con gli extracomunitari, no? Quindi capite, l'integrazione non è il forte dei popoli diciamo europei, perché c'è questo problema. Però bene o male, poi in effetti io como praticamente circa 30-40% della popolazione di origine meridionale, quindi oppure di altre regioni d'Italia, dove sicuramente essendo una città diciamo con risorse, almeno lo era allora, ciascuno di noi ha avuto la possibilità, i tempi sono cambiati, poi ne parleremo nelle altre domande sul problema dei giovani. All'epoca, quando ero più o meno giovane come voi, ho trovato ovviamente accoglienza in città e possibilità di realizzazione sul piano personale e sul piano professionale. Forse i tempi ora sono cambiati, comunque sarà oggetto della seconda o terza domanda che ci faranno. Grazie, buongiorno a tutti. Dopo questo piccolo stacco pubblicitario possiamo riprendere tutti i posti e partire con le domande. Manca qualcuno? Partiamo subito con le domande. Come spiegato prima Davide, questo incontro prevede quattro temi da affrontare e il primo è relativo alla presentazione dei candidati. Quindi la prima domanda che vorremmo porvi è: cosa ritenete di avere fatto finora e cosa invece ritenete di avere mancato per questa città? E quindi passerei a voi la parola per darci una risposta. Ecco, auguri a Stefano che oggi fa il suo compleanno. Un applauso. Umanizziamo cosa ritiene di aver fatto? Dicevo prima, perché non c'era il microfono, io sono consigliere comunale dal 2007 del Partito Democratico, quindi faccio parte dell'opposizione all'interno del Consiglio. In effetti io dico alla domanda cosa ritiene di aver fatto durante in questi quattro anni e mezzo. Io personalmente dico ho fatto molto, lo dico così senza nessuna presunzione e se... anche perché potrei essere smentito da qualcuno dei presenti, quindi lo affermo. Abbiamo fatto moltissime battaglie, dal tema della legalità, del rigore, del rispetto delle regole, dal tema dello sviluppo della cultura, dell'associazionismo nel campo culturale, dal tema di recuperare per esempio il Politeama, dal tema del coinvolgimento, della partecipazione, la tutela degli anziani. Abbiamo fatto tutta una battaglia di cui sono stato uno dei protagonisti sulla questione della Cadindustria, che chi è di Como senz'altro ricorderà, dove lì io ritengo, lo dico pubblicamente, me ne assumo la responsabilità, sono avvenuti fatti probabilmente anche un po' gravi, tant'è che il Consiglio d'amministrazione è dovuto andare a casa, quindi anche per proteggere questa importante istituzione della città. Abbiamo anche preso diverse posizioni riguardo a tutte le cose che a Como non vanno, dalle paratie, Ticosa, Camerlata, il cinema, evitando il peggio. Quindi tutto sommato io potrei dire che su questo piano abbiamo fatto anche preso mozione, abbiamo mandato a casa tre assessori che sono stati sfiduciati su mozione della minoranza, di cui almeno un paio le ho scritte io, ovviamente condivise da tutti gli altri, perché da solo non si va da nessuna parte. Quindi abbiamo fatto quello che l'opposizione naturalmente doveva e ha potuto fare, ma abbiamo fatto tutto. Ci diamo il massimo dei voti, mi do il massimo dei voti, no, assolutamente, questo io lo dico con molta sincerità e molta chiarezza. Qualcosa sicuramente l'abbiamo mancata, cioè non è riuscita, potrei fare degli esempi, ma innanzitutto voglio dire perché non siamo riusciti ad ottenere il massimo dei voti o quasi il massimo dei voti. Innanzitutto c'è una questione di esperienza, indubbiamente. Io personalmente sono stato eletto in Consiglio Comunale, di cui mi onoro di aver fatto parte, di farne parte nel 2007, quindi come prima esperienza, e quindi c'è tutto un periodo di apprendistato anche nel fare l'opposizione, cioè non è semplice, non è facile fare l'opposizione, anche se ho una certa età e credo di avere una certa competenza ed esperienza. Quindi c'è stato sicuramente questo, per cui dico che naturalmente col passare del tempo, domani, oggi, dopodomani, sicuramente la nostra sarà un'azione più incisiva, perché abbiamo imparato, abbiamo appreso gli strumenti anche per essere incisivi. E poi probabilmente perché anche insieme ai miei compagni magari potevamo lavorare anche un po' meglio. Per esempio, io dico, ci è mancata questa partecipazione, purtroppo, io direi. Questo gruppo consigliare, questi gruppi consigliari, tra i quali non c'è solo il PD, ci sono altre forze, c'è il gruppo di Magatti, che naturalmente ognuno di noi ha fatto il suo dovere, se avessimo avuto l'attenzione e la partecipazione dei cittadini, probabilmente, direi quasi sicuramente, forse avremmo fatto meno errori, forse saremmo stati più incisivi. In questo invece è importante, cose che stiamo vedendo, che sta avvenendo durante queste primarie, cioè se i cittadini non partecipano stimolando i consiglieri, gli amministratori, controllandoli, anche riprendendoli, è evidente che è facile magari dare l'impressione che in quelle stanze non accade, non avviene quello che deve accadere, quello che deve avvenire. Io comunque dico questo, anche perché il tempo ora è scaduto quasi e avremo altri momenti anche per confrontarci sui contenuti. Io dico che comunque ciascuno di noi, questa opposizione, sicuramente è in grado di fare un grande lavoro. Purtroppo la maggioranza, qui abbiamo qualche esponente, dico purtroppo per la città, ha fallito completamente il suo compito storico. Ha fallito. Quello che è accaduto a Roma, di cui vi chiedo di fare un applauso perché è una giornata storica, il fatto che Berlusconi si sia dimesso e se ne sia andato a casa e quindi dà la possibilità al paese di potersi rinnovare, è accaduto anche a Como. Bruni però non se ne va domani, quindi se ne andrà, gioco forse e per forza se ne andrà fra qualche mese. Abbiamo tutti l'occasione effettivamente per avviare un processo di rinnovamento e di riforma a Como, di cui la città ha assolutamente bisogno. Però attenzione, è importante che i cittadini di questo ne siano pienamente convinti, ne siano pienamente e partecipi. Grazie. Vorrei precisare una cosa, circoscrivere un attimo la domanda. È meglio, vorremmo sapere cosa avete fatto voi proprio come persona, le vostre battaglie personali, più che legate al vostro eventuale partito di appartenenza. Salgo. Ma allora, prima cosa io vorrei dire che cosa hai fatto per la tua città. Io penso che non sia giusto partire circoscrivendo strettamente all'aspetto politico. Penso che tutti, ciascuno di noi, abbia una responsabilità nei confronti della città. Io quindi per prima cosa dico che ho cercato di partecipare sempre alla vita della mia città con la consapevolezza di essere parte di una comunità. E quindi questo è stato il mio primo impegno, che può essere comune a molti di voi come presenza in una comunità cittadina. Il secondo impegno per me, ma anche per la mia città, è quello, lo dicevo prima, di aver cercato di educare i miei tre figli ad una cittadinanza responsabile e solidale. Poi c'è l'aspetto particolare di un impegno più diretto in ambito politico-amministrativo, io, che per me è abbastanza lungo, nel senso che è partito dal 1985 nella circoscrizione di Albate ed è proseguito in Consiglio Comunale dal 2002. Se dobbiamo circoscrivere agli aspetti degli ultimi anni del Consiglio Comunale, direi che il mio ambito di impegno più diretto e più specifico è stato quello dell'urbanistica, in quanto per uno strano scherzo della politica, nonostante sia un consigliere di minoranza, sono stato eletto presidente della commissione urbanistica. E in quest'ambito l'impegno mio, ma anche di tutti gli altri consiglieri di minoranza che erano presenti in circoscrizione, è stato quello di dare un contributo per cercare di contenere al minimo i danni di uno sconsiderato uso del territorio che è stato fatto sulla base delle regole urbanistiche vigenti e sfruttate appieno sia da questa maggioranza che dagli operatori privati. Ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti. Io credo che non ho rimpianti o rimorsi, nel senso che penso che di essermi sempre mosso cercando di dare dei contributi sensati, motivati, specificati per far cambiare idea a chi aveva la responsabilità di amministrare questa città, e cioè la maggioranza. In qualche ambito siamo riusciti a contenere i danni quantomeno o ad evitare l'attivazione di determinati interventi. In altri ambiti la maggioranza ha voluto andare avanti per la sua strada e ha prodotto i danni che sono visibili. Un altro impegno specifico e importante è stato quello che peraltro da molti anni, non solo da questi ultimi, ci ha visto sempre come annunciatore di disgrazie in rapporto al progetto delle paratie sul Lungolago. Anche qui non mai immotivato, mai frutto solo di ripicche, ma sempre presentando le motivazioni specifiche per cui era un'azione sconsiderata dar corso a quell'intervento. Purtroppo dico che quanto abbiamo denunciato più riprese e dimostrato in tutti i dibattiti che si sono riusciti a fare in consiglio si è rivelato fondato, e ora la città è in mezzo al guado in questa situazione in cui la maggioranza non riesce a uscire da questo. Vedo il fischietto. Io. Innanzitutto una protesta contro le barriere architettoniche che mi impediscono di salire sul podio, quindi parlo da qua. Che cosa ho fatto per la città? Io credo di essere stata sostanzialmente un cittadino normale come tanti altri, di avere fatto quindi soprattutto il mio dovere per la città, di aver messo il mio impegno nel partecipare alla vita politica, alla vita sindacale per tutti, e di avere lavorato per la città. Vi raccontavo prima che ho avuto la fortuna di lavorare in un ente pubblico come la Camera di Commercio con una serie di iniziative rivolte appunto a tutta, non solo la cittadinanza di Como, ma tutta la provincia. Ma la cosa che mi è venuta in mente forse è l'esperienza che ricordo con maggiore piacere, è un'esperienza che ho fatto quando ero molto giovane, gli ultimi anni delle superiori come voi. Erano i primi anni in cui cercavo di trovare uno sbocco al mio desiderio di fare qualcosa per la comunità, di essere una persona più completa, anni 66-67, quindi avevo circa 15-16 anni, e sotto l'insegnamento molto importante di Don Lorenzo Milani, che non so quanti di voi conoscono, è stato un punto di riferimento molto importante per la mia generazione e per l'importanza da assegnare all'educazione nello sviluppo dei giovani, avevo aderito ad una iniziativa di doposcuola in uno dei quartieri periferici della città di Como, attività di doposcuola rivolta ai ragazzi di famiglie disagiate che quindi trovavano nella scuola difficoltà a essere preparati nella scuola, e quindi quello diventava una barriera per il loro sviluppo. Dico, è una cosa che ho fatto per la città, in realtà è stata un'esperienza che ha dato a me molto di più di quello che credo io sia riuscita a dare agli altri. La seconda parte della domanda è che cosa resta da fare? Resta da fare il sindaco della città di Como, questa è la ragione per cui ho affrontato questa sfida, questa esperienza, ma non fare il sindaco per fare il sindaco, per essere un sindaco che dialoga con la città, che ascolta la città, che riesce in un'operazione di cui credo ci sia molto bisogno, che è quella di riconciliare l'amministrazione di questa città con tutti i suoi cittadini, attenta ai bisogni della cittadinanza, soprattutto in un momento in cui le difficoltà sono molte e c'è bisogno di capacità di ascolto e di capacità di mettere assieme tutte le intelligenze e tutte le risorse e anche di rimuovere le barriere architettoniche. Allora, cerco di essere sintetico, perché rischio sempre di essere lungo. Allora, per quanto riguarda il tema, devo andare sopra, sì. Il tema professionale lasciate perdere, sapete che ho lavorato nel mondo della scuola, quelli che hanno avuto a che fare con la scuola mi hanno visto, sanno che cosa ho fatto, sono stato in tutti gli organismi istituzionali fino alla giunta, nel consiglio scolastico provinciale, ma quelli lasciamo stare. Se sintetizzare le cose che credo importanti che ho fatto nella mia vita dal punto di vista della presenza, sono soprattutto quelle legate al tema dell'educare sia professionale che quello non professionale legato al mondo dello scautismo. Ho detto prima dello scautismo giovanile, poi dello scautismo adulto che ho portato in questa città, ho detto prima sono vicepresidente nazionale del movimento. Per quanto riguarda il mondo culturale, il mondo culturale Comasco ruota intorno alla scuola, ma non solo, alla nascita dell'università. Io ho promosso convegni, incontri per promuovere la cultura scientifica in città insieme con l'Università dell'Insubria, ho collaborato con il centro Alessandro Volta e ho realizzato lavori negli anni che hanno portato alle celebrazioni voltiane, realizzando i contenuti scientifici di una mostra che ha portato Alessandro Volta in giro per il mondo, ho collaborato alla riprogettazione del Tempio Voltiano e sono persona che sta in politica da molto tempo. Dentro la politica abbiamo, mi si permette di dire abbiamo, perché nessuno sta in politica da solo. La politica è espressione di qualcuno che pensa con te, che lavora con te, e quindi non si può parlare a livello personale, però alcune cose le voglio dire come risultato che attraverso di me è arrivato. Primo, il fatto che questa città abbia un referendum tra i cittadini, il sostegno ai progetti alla vita indipendente delle persone con disabilità, le delibere che stanno portando e porteranno a breve questa città ad avere la raccolta differenziata spinta, una delibera che porta questa città ad avere la possibilità di una tutela per quanto riguarda la disposizione delle antenne per radio e televisione. Il contributo fondamentale sui temi come quello di Carindustria. Abbiamo promosso un referendum sul mantenimento dell'ospedale Sant'Anna e comunque sull'utilizzo dell'area di Sant'Anna per dare un tetto tutto l'anno ai senza dimora. Forse le persone non lo sanno, ma stamane è morto nella nostra città un senza dimora. Questo per dire che noi abbiamo anche il disagio estremo che ci interpella. Per il referendum sul nucleare ho fatto parte del comitato scientifico a livello locale, ho messo a disposizione quelle che sono le mie competenze come radioprotezionista, facendo a Como, a Milano, nelle scuole una serie di incontri di contenuto, di informazione per quanto riguarda il tema dell'energia nucleare. Sono stato a disposizione per tutte le raccolte di firme che in questi anni sono state fatte in questa città. Vi dico che per il referendum dell'acqua la provincia di Como ha dato circa 7.000 firme, più di 1.500-1.700 sono state siglate da chi vi sta parlando. Io ho passato giornate intere con gli amici di Paco a raccogliere firme, a parlare ai cittadini. Io sono nel mio fare politica non persona che sta dentro le stanze, ma persona che sta nella strada. Ho sempre amato incontrare le persone e chi è passato qualche volta per la città sa di averci trovato, mi parlo al plurale, a fare questo lavoro per tutti. Adesso, come abbiamo già detto prima, alla fine di ogni tema un candidato ha il diritto di fare una domanda ad un altro candidato a sua scelta. Questa volta è il turno della signora Gisella Introzzi e a lei la parola. Sì, la mia domanda è per Bruno Magatti, perché io devo dire che invidio moltissimo il fatto che lui sia stato insegnante e quindi abbia avuto la possibilità di stare con i giovani, che sia stato un insegnante molto amato ai suoi studenti. La domanda è questa: quali sarebbero state le iniziative che il Comune di Como avrebbe potuto fare per rendere più efficace l'azione educativa di un insegnante come sei stato tu? Allora, io non so che cosa avrebbe dovuto o potuto fare il Comune di Como. Io ho sempre grande rispetto, devo dirlo francamente, per l'autonomia degli studenti. Io credo che chiunque abbia avuto a che fare con dei ragazzi, con dei giovani, debba sapere che non hanno bisogno di qualcuno che gli dica che cosa devono fare, ma deve essere disponibile nel tempo, io sono stato nella scuola moltissimi anni, a capire qual è la domanda di quel momento e quindi a, come dire, ad accompagnarli nella ricerca delle soluzioni. Io non credo che si possa chiedere a chi si rende disponibile per amministrare una città come facciamo noi di dirci che cosa farai tu per noi, perché questa cosa non funziona, perché le cose che io potrei dire oggi potrebbero andare bene oggi e non dopodomani. Le sensibilità e i bisogni sono quello che uno sta vivendo in quel momento. Oggi siamo in un'epoca difficile in cui i ragazzi hanno, come dire, sicuramente un'ansia rispetto alle prospettive di futuro che gli sono poste dinanzi, hanno bisogno, a mio parere, di essere rassicurati, ma hanno soprattutto bisogno di persone disposte ad ascoltarle e disposte ad accogliere anche i loro azzardi e i loro errori. Va bene, allora, lo scopo di questa iniziativa è quello di rivolgersi ai giovani, per cui adesso abbandoniamo quelli che sono gli argomenti un po' più barbosi della politica e avviciniamoci e entriamo proprio nel vivo della conversazione. E la prossima domanda infatti riguarda Como, i giovani e gli spazi che sono dedicati ai giovani. In particolare il nostro interesse è chiedervi se in questa città esistono degli spazi completamente dedicati ai giovani, nei quali i giovani stessi possano manifestare le proprie passioni, i propri interessi. E poi una domanda un po' più particolare riguarda l'abitare a Como. Se voi foste più giovani o anche adesso, consigliereste mai a un giovane di trasferirsi da un'altra città a Como per viverci? A voi la parola, a parte signori. Acceso? Sì. Preoccupatissimo. Allora, spazi, gli spazi e i giovani. Secondo me non è proprio vero quello che si dice, che non ci sono spazi dedicati ai giovani, e forse con interventi anche a bassissimo costo si potrebbe riuscire a rendere più efficaci già le risorse che ci sono, magari con piccole integrazioni. Per esempio, ci sono due centri di aggregazione giovanile che, è vero, sono in periferia, ma esistono, sono a Breccia e a Tavernola. Ci sono gli spazi che potrebbero essere molto meglio sfruttati delle circoscrizioni. C'è la biblioteca, che potrebbe avere degli orari e delle disponibilità di spazio molto diverse per i giovani. È vero però che manca in centro storico, nella Convalle, la disponibilità di spazi dove i giovani, anche autogestendosi, possano trovare un luogo d'incontro, di creatività, di dialogo efficace. Questo penso sia forse il primo intervento dal punto di vista dell'onere, della localizzazione, dell'infrastrutturazione che vada ritrovato. Qualcosa di interessante, mi sembra giusto riconoscerlo, anche se non è stato fatto, se è stato fatto da questa maggioranza, mi sembra che ci sia anche in altri ambiti. La sala prove per la musica San Martino mi sembra una cosa interessante, per quello che ho capito mi sembra anche abbastanza relativamente fruibile, con costi accettabili, così come la sala video che c'è al Volta. Secondo me l'altro problema che richiederebbe un costo quasi zero, ma potrebbe migliorare molto la situazione, è quella di avere strumenti più efficaci per comunicare le disponibilità, per rendere disponibili le disponibilità di spazio e anche le disponibilità di iniziative interessanti per i giovani. Mi sembra che da questo punto di vista il sito del Comune di Como sia molto carente e non molto ben strutturato. E uno sforzo di questo tipo, sia dal punto di vista dello strumento informatico, ma sia dal punto di vista anche dell'appoggio del rapporto con le scuole, perché queste comunicazioni di disponibilità, di spazi e di iniziative potrebbe essere resa un po' più fruibile visivamente anche con la collaborazione delle scuole medie superiori per comunicare quotidianamente ai ragazzi quelle che sono le iniziative e gli spazi disponibili. Se ho ancora quanti secondi per il consigliare, penso che il consiglio per un giovane di venire a Como, penso che il giovane lo accetti più volentieri da un altro giovane, però dal mio punto di vista io penso che Como ha le potenzialità per essere molto interessante per i giovani. Certamente bisogna fare qualche passettino per migliorarla dal punto di vista della dimensione. La dimensione è una dimensione che si presta a favorire relazioni umane, relazioni culturali interessanti. La pedonabilità e ciclabilità e raggiungibilità degli spazi in parte c'è, in parte potrebbe essere molto migliorata, ma sicuramente è una potenzialità che per Como è interessante anche per i giovani. E quello che abbiamo dal punto di vista delle risorse culturali, architettoniche e paesaggistiche, abbiamo il lago, abbiamo le montagne, abbiamo tutto, credo che basta poco per renderla appetibile anche ai giovani questa città, nonostante. La mia valutazione sulla disponibilità di spazi è molto meno ottimistica di quella che ho sentito da Mario Lucini. Mi sembra che gli spazi manchino per tutta la popolazione. Se penso che a Como è rimasto un solo cinema, non credo che questo possa essere ritenuto soddisfacente per una città che ha anche un livello di delle nostre dimensioni e che ha complessivamente un livello di vita che dovrebbe senz'altro essere superiore. Per i giovani io penso veramente sia necessario fare uno sforzo. Attenzione, il fatto che ci siano potenzialmente degli spazi, sono state citate le scuole, il problema è quello di renderlo effettivamente fruibili. E quindi sicuramente la biblioteca certo potrebbe essere una potenzialità, però non una biblioteca che abbia gli orari, io dico, di chiusura più che di apertura, che consentano ai giovani di frequentarla, di usarla, più altri spazi dove i giovani si possano trovare fra di loro per progettare tante cose. Mi sembra veramente che da questo punto di vista Como abbia tanta strada da fare e tante possibilità da percorrere. E ripeto, non necessariamente andando a costruire di nuovo, ma progettando meglio un utilizzo intelligente di quello che c'è. E nell'utilizzo intelligente, a mio modo di vedere, ci sta anche il coinvolgimento dei rappresentanti, dei ragazzi, che devono essere appunto coinvolti sia nella costruzione di nuove idee, di nuovi progetti e, perché no, anche proprio nell'utilizzo, nella gestione di questi spazi da mettere a disposizione. Un'unica cosa, appunto, le scuole. Perché le scuole devono semplicemente essere il punto in cui si va a lezione e non posti in cui ci possa anche ritrovare per stare bene assieme, per parlare con gli amici, per fare altre iniziative. Quindi sicuramente il mio desiderio è quello di costruire una città in cui, attraverso la messa a disposizione di ambienti adatti, sia possibile per i giovani, per i meno giovani, per gli adulti, per gli anziani, sviluppare una vita sociale più ampia all'insegna proprio anche dello stare bene assieme. consigli per l'acquisto per giovani che vengano da altre parti di venire a vivere a Como. Ma io sono veramente molto legata alla mia città, che ritengo bellissima, quindi dal punto di vista ambientale e paesaggistico mi sembra notevole. Io vi raccontavo prima che ho lavorato per più di 20 anni a Milano, ho mantenuto nonostante la fatica la residenza a Como, non riuscirei a vivere senza la bellezza del lago, quindi sicuramente da questo punto di vista la proporrei a dei ragazzi, la bellezza degli sport, dell'ambiente naturale in cui si può vivere sicuramente, e le possibilità che attorno all'università possono essere create. Mi piacerebbe molto consigliare dei giovani di venire a vivere a Como, anche giovani stranieri, perché attraverso la costruzione di una comunità più ricca di diverse nazionalità sarebbe anche più facile fare di Como quella città di dimensione internazionale che può essere. Riparto dall'ultima cosa, che mi sembra la cosa più sensata. Questa città potrebbe, anzi in qualche modo ce l'ha in pectore, una vocazione, che è la vocazione di essere una città, mi permettete di dire questa espressione, della cultura, della formazione, un luogo desiderato, un luogo desiderabile, come in realtà è desiderato e desiderabile da chi non ci vive. Come visto da lontano è un posto desiderabile. Noi ci viviamo dentro e ne cogliamo la tristezza. I luoghi che sono stati costruiti negli anni per l'aggregazione sono luoghi tristi, sono luoghi, come dire, un po' cupi, sono luoghi non desiderabili, e io credo che questo sia il grande problema. Noi abbiamo alcune strutture che anche proprio per come sono denominate sono tristi. Come è già stato detto, non dobbiamo dire che non abbiamo nulla, dobbiamo dire che queste cose possono e devono diventare qualcosa di appetibile, di gradevole, di amabile, a partire dal bisogno di incontro, ma anche per quelle cose che probabilmente sono nella testa di molti di voi e che non si riescono a realizzare. Qualche settimana fa ero con un tavolino vicino a Porta Torre, vicino a noi c'erano dei ragazzi che costituivano il nucleo comasco di Amnesty International, dei ragazzi graziosissimi, preziosissimi, un piccolo nucleo che aveva una sede nella circoscrizione 5, che è quella in via Tommaso Grossi. Loro ovviamente usavano di una di quelle sale, alternandosi ad altre, per la loro riunione periodica. Ovviamente la loro preoccupazione era sul fatto che questa loro iniziativa, così come tante, si sarebbe chiusa brevissimo per la chiusura della circoscrizione. Di quel posto, che adesso avrà un bel destino, io mi auguro, quello di diventare un collegio universitario, quindi diventare un propulsore della vita culturale e sociale giovanile di questa città. Dobbiamo credere nella possibilità di lasciare gli spazi perché le persone possano far crescere le cose cui loro credono, non le cose che vogliamo noi. Siamo tanti, siamo diversi, abbiamo sensibilità diverse, abbiamo bisogno di trovare lo spazio giusto per vivere, senza immaginare che tutto debba essere messo a reddito. Non dobbiamo continuare a dire, come scrive qualcuno, che ogni spazio deve essere usato solo per produrre reddito per il comune di Como. Il comune di Como deve avere il coraggio di dare degli spazi senza pretendere nulla, perché questo è investimento nella cultura, investimento nella socialità, è investimento per il futuro della città. Quindi la prima questione è: basta con fare reddito sulle questioni che riguardano la vita giovanile. Scusi, vorremmo chiederle invece, per quanto riguarda proprio gli spazi giovanili, perché mi sembra che sia un po' usciti dal tema. Chiedo scusa se ho interpretato male la domanda. Gli spazi giovanili, ho detto che ce ne sono 30 secondi, mi si dice 30 secondi. Ho detto alcuni ci sono, altri certamente sono da realizzare, però quello che ha detto Mario è abbastanza vero, degli spazi ci sono, il problema è che non sono resi fruibili. Poi abbiamo la Ticosa, qualcuno sa bene che in questa città non è possibile immaginare un momento collettivo con più di 400 persone, non c'è. Il posto più grande che abbiamo è il setificio, oltretutto dentro l'università per cui con grandi problemi. Noi continuiamo a credere che sia possibile realizzare uno spazio di questo tipo, uno spazio appunto nel quale fare degli eventi, usa questa parola oggi, ma che siano eventi di carattere culturale, sociale, musicale, chiamatelo come volete, accessibili, fruibili e ripeto, non immediatamente e definitivamente orientate a un uso speculativo privatistico. Abbiamo il Politeama che è stato detto, guardate che il Politeama, che è una risorsa da spendere, ha uno spazio enorme che potrebbe essere utilizzato e gestito proprio con una destinazione di tipo giovanile. Questa proposta... A Como quanti spazi sono dedicati ai giovani? No, sicuramente, riprendo anche la precisazione del collega, vi sono diversi spazi nei quali i giovani vivono, pensiamo non so alle palestre, le scuole, l'università, quindi sicuramente vi sono gli spazi. La domanda è, sono sufficienti, qualitativamente rispondono questi spazi ai giovani di oggi 2011? Allora la mia domanda è no, assolutamente. Como da questo punto di vista è molto carente. Ove si guardasse per esempio anche alla stessa quantità o qualità delle palestre, noi sappiamo che sono insufficienti, basti pensare alla palestra al centro sportivo di Casate che fino a pochi giorni fa aveva necessità di lavori urgenti dove non si poteva andare, basti pensare anche al fatto che vi sono delle scuole elementari, i giovani sono anche i ragazzi, le scuole di Lora, la scuola di Sagnino che non hanno la piscina, soltanto è stata realizzata nella scuola media di Via Foscolo una mini piscina adeguata. E basti pensare anche alla stessa università, per carità abbiamo l'intervento che è stato fatto al Sant'Abbondio, ma non è sufficiente perché anche la stessa università di Como è divisa tra diverse sedi, quindi una vera e propria vita universitaria giovanile non è possibile. Qui mancano luoghi di qualità, non ci sono cinema, non ci sono teatri, non ci sono sale di musica. Lo stesso conservatorio che è frequentato da giovani è quello che è striminzito in spazi assolutamente insufficienti. Allora, da questo punto di vista si possono fare, non è possibile a Como avere delle manifestazioni culturali di qualità per i giovani, non lo è per gli adulti, tantomeno lo è per i giovani. L'altra domanda è, consigliereste a un ragazzo, magari studente, di trasferirsi a Como, oppure uno studente, oppure cosa potrebbe attrarre Como? Io francamente voglio essere sincero, io ho un figlio giovane che pur vivendo a Como ha studiato eccetera, si è laureato, io gli ho consigliato di sistemarsi a Milano, quindi io vi dico assolutamente la verità, perché un giovane oggi che ha fatto degli studi di qualità, a Como non ha la possibilità di potersi realizzare, io a Como ci sono arrivato da giovane, io ero appena laureato, avevo 26-27 anni, l'ho scelta Como, ma io parlo di oltre 30 anni fa, quando Como era una realtà completamente diversa, allora poteva essere scelta perché dava delle opportunità e quando un giovane arrivava a Como sicuramente si autopromuoveva o aveva le occasioni per essere promosso. Oggi non è così, il giovane a Como, sia esso laureato oppure non laureato, non può realizzare le sue aspettative e tutti noi questo lo sappiamo. Ecco perché allora il problema dell'università, l'ultima domanda, guardate, qui si parla troppo di questo famoso campus, ma il problema centrale non è il campus, il problema centrale è la qualità, l'efficienza, la qualità dell'Università di Como. Questa è la domanda, qui abbiamo un emerito professore che ci sta ascoltando dell'Università. Il problema centrale di Como non è soltanto gli alloggi, cioè dal punto di vista diciamo abitativo, perché il campus tutto sommato in parte è questo, ma il problema centrale è che tipo di università noi vogliamo a Como. C'è un'università di qualità a Como? Io dico di sì, c'è. Ci sono due dipartimenti di qualità a Como, il Dipartimento di Economia e di diritto, il Dipartimento di Scienza Fisica e Chimica, oltre che il Politecnico. Allora il compito della città è assolutamente valorizzare questi luoghi, piuttosto che pensare al lontano domani, pensiamo all'oggi. Vanno valorizzate queste strutture universitarie attualmente presenti e farle diventare dei picchi di qualità, dei centri di qualità, in modo da attrarre i giovani. Grazie. Io avrei un'altra domanda da farvi. Al di là, partendo dal fatto che non vi chiedo di fare un giro in Como Centro durante le serate settimanali, perché sembra di camminare nella città dei morti viventi, ma se voi avete mai provato a fare un giro anche solo il venerdì sera, la domenica, il sabato sera, io sfido chiunque a trovare qualcosa di interessante da fare in questa città, al di là dell'andare nel solito bar, nel solito locale. Ma secondo voi Como è una città dove un giovane può veramente crescere, e non dico solo culturalmente ma anche umanamente? Chi vuole rispondere per primo? Gira tutti. No, sicuramente, ripeto, la mia convinzione sulla carenza di strutture che non sono solo spazi fisici, sono anche di occasioni adeguate, è una carenza percepibile, ed è ancora più percepibile per i giovani, ma è evidente anche per le persone con qualche anno in più. Alzare la voce, ok, dicevo, è un bisogno che sentono non solo i giovani, ma che sentono anche le persone come me. Devo dire che c'è magari una eccezione, ci sono dei mesi estivi in cui di iniziative interessanti ce ne sono concentrate. Credo che però la città debba essere vissuta assolutamente, assolutamente tutto l'anno. Quindi occasioni che sono spazi, iniziative, contatti che devono assolutamente essere favoriti. Io sono d'accordo con Bruno Magatti quando sottolinea l'importanza di dare spazio alle energie, ai movimenti che già ci sono, non sovrapporsi ma farli emergere. Certamente però occorre dare una mano, avere che l'amministrazione comunale riconosca come interlocutori le associazioni giovanili, i movimenti giovanili, che li riconosca con convinzione come soggetti da aiutare e fornire loro una serie di sostegni per mettere in rete le loro iniziative, per raggiungere i loro obiettivi. In queste cose, oltretutto, credo, fermo restando che la citazione della città fantasma, dei morti viventi, città fantasma, lo dico io, la condivido pienamente, c'è anche il forte contrasto con delle zone che invece sono assolutamente sature. Vuole rispondere alla domanda? Allora, per quanto riguarda la vita notturna, diciamo, e le occasioni ricreative, sicuramente con anche l'ultima ordinanza che recentemente è stata annullata dal Consiglio di Stato, si sono create le condizioni per avere molto meno occasioni di vivere Como da parte dei giovani nelle ore serali, anche perché sapendo della chiusura a mezzanotte uno si sposta direttamente da un'altra parte. Quindi sicuramente quello è stato uno strumento che ha penalizzato dal punto di vista della socializzazione, dei momenti ricreativi, la possibilità dei giovani di stare qui. Credo che fosse uno strumento sbagliato, anche se l'alternativa non può essere il disastro e l'invivibilità della città murata che vivevano tanti residenti. Allora, credo che ci debbano essere altri strumenti, che sono quelli di un controllo, di una presenza di vigilanza anche un po' più assidua, in modo da non penalizzare la vita dei giovani ma non rendere inabitabile la città murata, e credo che questo si possa fare tranquillamente senza la necessità di chiudere tutto a mezzanotte. Per quanto riguarda invece le occasioni culturali, io credo che ci siano in realtà molte iniziative anche nei mesi invernali. Il problema è che c'è una scarsissima diffusione delle informazioni. In realtà basta, adesso faccio pubblicità a Alessio Brunialti, che sul sito della provincia mette la settimana Incom. Voi guardatela quotidianamente, ci sono decine di appuntamenti ogni sera, solo che l'unico strumento, chi non sa neppure che ci sia, dove può trovare queste occasioni. Ecco, in questo costerebbe pochissimo farlo anche da parte dell'amministrazione, raggiungere nei luoghi di vita dei giovani, a partire dalle scuole, con queste informazioni, in modo da rendere più vivibile, più interessante anche la vita serale dei giovani. Io ricordo che quando ero giovane vivevo in una città che era, io ho vissuto qualche anno a Firenze, la prendo un po' come, le dimensioni sono diverse però è significativa, no? Allora, cosa si faceva dopo aver studiato, lavorato, dopo le 20, una città accogliente, una città interessante, una città viva? Andavamo al cinema De Sé, per esempio, il cinema di qualità oppure al cinema non di qualità. Bene, Como questo non ce l'ha, perché non c'ha neanche una sala di cinema, non c'ha neanche la possibilità di poter accedere a delle sale dove ci sono delle proiezioni magari di film in serie oppure indirizzato su certi autori o registi. Oppure dove si poteva andare? Un giovane europeo, vissuto come voi anche in qualche città europea significativa qualche mese, dove si andava per esempio la sera se volevamo ascoltare della musica? Si andava in alcuni locali dove si stava bene, magari si brindava qualcosa, si ascoltava dell'ottima musica, c'erano orchestrine oppure no, quindi i giovani stavano lì. A Como assolutamente questo non c'è, non esiste assolutamente, non esiste proprio, no? Tutto questo. Oppure altre cose, mi vengono in mente altre situazioni, la Casa delle Culture è un mio leitmotiv, io propongo di realizzare la Casa delle Culture. Per esempio in una città, non faccio, vi è un palazzo un po' più alto di questo che ha alle vostre spalle, un po' medievale, bello, di 3 o 4 piani, che era di proprietà comunale, che lo ha ristrutturato e l'ha messo a disposizione appunto dei giovani della cittadinanza, si chiama Casa delle Culture. Al primo piano c'è un'emeroteca, uno va lì e legge le riviste eccetera, al secondo ci sono i libri appena usciti dopo, ed è aperto peraltro fino a mezzanotte, al terzo c'è un infopoint, quindi ci sono diversi computer dove i giovani vanno, stanno delle ore eccetera, e al quarto c'è anche una sala musica dove si può ascoltare. E proprietà comunale, peraltro questa è una città di dimensione come Como ed è meno ricca di Como, dove lì diverse decine, centinaia di giovani ogni sera passano il loro tempo in modo intelligente e conviviale. Un minuto per rispondere. Non è che ho sentito tutto, quindi dico semplicemente un pensierino. Allora, io rimango nel parere, parlo ai giovani che sono qui, che le cose non arrivano perché il babbo te le dà. Le cose arrivano perché tu te le costruisci. Allora, se c'è una cosa da fare è interagiamo in maniera costruttiva. Le cose sono dette prima, cioè ma dai, piangiamoci addosso, eccetera, ma insomma, se noi vogliamo costruire uno spazio, un luogo, anche un luogo pubblico, nel quale semplicemente non si beve il drink e poi buonanotte, ma in cui c'è, come dire, spazio di conversazione, di cultura, di musica, di piacere, costruiamola sta cosa. Non sono d'accordo, ve lo dico subito, semplicemente con quello che ti suona il campanello e ti dice non mi piace così. Ok, allora per motivi di tempo cerchiamo di avvelocizzare un po' il dibattito e passiamo subito al tema degli spazi sportivi. Per cui la nostra domanda è, tenendo in considerazione che il Palazzetto dello Sport di Muggiò, il progetto relativo al Palazzetto dello Sport di Muggiò non è andato a buon fine, e tenendo anche in considerazione lo spreco che si sta facendo del campo Belvedere, che ha enormi potenzialità, quali sono le vostre proposte per degli eventuali spazi sportivi per i giovani? Grazie. 4 minuti per rispondere. Ma io penso che una cosa su cui si possa e si debba intervenire sono gli spazi legati allo stadio. Lo stadio attualmente è adibito quasi esclusivamente al calcio Como. Probabilmente c'è la possibilità di recuperare questo spazio anche per la pratica di altri sport, quindi rendendo tutta quell'area un'area fruibile, una parte più ampia della cittadinanza. Un'altra cosa che approfitto di questa domanda per sottolineare riguarda l'utilizzo delle strutture sportive, ma è più generalmente correlata anche alle altre attività. Penso che sia importante riuscire a pensare anche ad una mobilità che consenta ai giovani di spostarsi in maniera più agevole e anche meno onerosa, perché altrimenti la limitazione di raggiungere alcuni punti della città, soprattutto nelle ore serali, è fortemente condizionata anche da questo elemento. Giocherei molto sul realizzare delle opportunità tipo le carte per i giovani che favoriscano l'utilizzo e l'esercizio di una serie di attività a prezzi contenuti come deve essere per dei giovani. Ancora sulle attrezzature sportive spero di non uscire dal tempo a disposizione. Il progetto del Parco Belvedere lo vedrei in modo particolarmente favorevole, perché penso che la possibilità di ampliare l'offerta sportiva con possibilità di frequentare, di praticare altri sport, l'hockey, il rugby, sia particolarmente importante per una visione meno unilaterale delle attività sportive. Quattro minuti anche per lei. No, non li userò tutti. Io sono molto contento, ve lo dico con convinzione, che il progetto di Mugiò si sia fermato. Io al di là della dimensione, dell'idea che stava dietro questa operazione, che prevedeva che questa grande area restasse in mano al realizzatore della struttura per molti anni, con dei costi probabilmente pesantissimi su tutti quanti coloro che avrebbero voluto poi usare quelle strutture, mi hanno sempre fatto ritenere che questa operazione non avesse molto senso. Al di là delle cose piccole o grandi che ci sono, io credo ancora una volta che se dobbiamo immaginare che questa città si muova in una direzione, dobbiamo sempre pensare all'università e dobbiamo pensare al Parco di San Martino che sta lì dietro. Il Parco di San Martino è un parco pubblico, un parco straordinariamente conservato, dentro il quale, con la logica dei piccoli passi, non delle grandi imprese, noi non andiamo da nessuna parte con le grandi imprese, o regaliamo a qualcuno i terreni, le aree pubbliche e gli facciamo fare una grande operazione di rendita e di speculazione, oppure dobbiamo avere il coraggio di fare i piccoli passi. E i piccoli passi significa: abbiamo un parco là dentro con anche delle strutture che già in passato furono messe a disposizione della realtà pubblica, e partendo da lì andiamo a fare lì dentro progressivamente delle piccole cose che servano alla città, agli studenti, a tutti quanti noi, per imparare a vivere quel luogo, a tenerlo nostro e a farlo diventare un luogo di cultura, di relax e di sport. Beh, io in questo, magari per creare un po' anche di dibattito, dico qualcosa che magari mi differenzia dai colleghi. Prima diceva la Gisella Introzzi riguardo allo stadio, io sono dell'idea di portarlo via lo stadio dove è situato. Peraltro vi è un progetto che sta camminando di realizzarlo a Villa Guardia, un progetto grande, l'avete letto anche sui giornali. Io sono assolutamente favorevole a quest'idea, mantenendo dello stadio la struttura più antica, che è quella che dà su via Sinigaglia, la piscina che resterebbe, recuperare il resto a un intervento di qualità, io penso a un parco, a cose di questo tipo. Riguardo poi al villaggio dello sport, onestamente devo dire che in Consiglio Comunale su questo tra di noi non ci sono idee comuni. Io ritengo, quanto ce l'hanno illustrato, questo importantissimo intervento che riguarderebbe un'area di via Mugio, quando ce l'ho illustrato io francamente, ma non solo io, anche altri della mia parte lo apprezzarono, lo condivisero. È un intervento molto importante che renderebbe quell'area e Como stesso anche un centro di vita sportiva di grandissima qualità e molto competitiva, quantomeno a livello regionale, anche se vi sono degli aspetti critici che si possono in sede esecutiva correggere. Quindi da questo punto di vista io mi differenzio rispetto ad altre cose. Peraltro spero che non sia morto. Ora, non è che su ogni cosa che è difficile realizzare noi dobbiamo auspicare che muoia. La Ticosa è difficile realizzarla e meno male che è morta, ritorniamo all'anno zero. Villaggio dello Sport, no signori, se noi pensiamo così morirà Como, morirà la città. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare e di realizzare questi grandi interventi, importanti interventi che danno la possibilità alla città veramente di attuare una svolta. Ma parliamone però, non diamo per scontato cose che io spero che non avvengano. Magari se non sono perfette, se non sono precise, magari non ci piacciono al 100% come tutte le cose. E vado a concludere, ho fatto un sondaggio. Io abito in una zona dove c'è uno spazio libero, più o meno come questa piazza, dove la gente, giustamente alla gente piace la tranquillità, nessuno piace il rumore, quindi dove avvenisse qualcosa in quell'area sicuramente la respingerebbero qualsiasi cosa. Io ho fatto un sondaggio, vi piacerebbe avere la piramide del Louvre, quello che è a Parigi? Tutti hanno detto non ci piace averla, questo è il concetto, cioè nel proprio giardino nessuno vuole nulla. Allora attenzione, da questo punto di vista moriremo, morirà anche la città. Grazie. Allora, per prima cosa mi corre l'obbligo, per correttezza e onestà, dire che non sono d'accordo con Marcello sul passaggio che ha fatto sulla Ticosa e sul Villaggio dello Sport, non tanto perché non si debbano fare iniziative o interventi che sono stati proposti da altri, quanto perché bisogna fare iniziative proposte a misura della città, a misura di Como. Quelle proposte del Villaggio dello Sport e della Ticosa non erano a misura di Como, a mio avviso, ed erano un danno per Como. Quindi quelle aree vanno utilizzate, vanno rese disponibili alla città, ma non possono essere realizzate in modo tale da rovinare la città. E quello significava, a nostro avviso, rovinare la città, così come la localizzazione di un'operazione come quella del Villaggio dello Sport all'interno ormai del centro urbanizzato con strutture di interesse provinciale era assolutamente improponibile, sia in termini di concentrazione di utenze sia in termini di risorse. Tant'è che queste due operazioni non è che sono andate a gamba all'aria del tutto quasi per caso, ma perché non avevano le gambe per camminare. Detto questo, se ho detto che dal punto di vista degli spazi e delle iniziative culturali non ero così negativo, devo dire che per quanto riguarda le strutture sportive invece siamo veramente a un livello disastroso, a partire dalle strutture piccole che usano i giovani, le società sportive, le palestre delle scuole sono in condizioni disperate, il palazzetto dello sport è in condizioni disperate. Non è mai stata fatta manutenzione, alcune sono localizzate in spazi tali che non consentono l'adeguamento per esempio per la pallacanestro alle nuove norme FIBA, per cui non si possono giocare le partite, per cui lì gli interventi servono davvero. Servono palestre, serve un palazzetto dello sport che non sia da 4.000 posti ma sia da 600-1.000 posti, anche perché se serve un palazzetto da 4.000 posti o da 3.000 posti stanno facendolo a Cantù, che non dobbiamo vergognarci di dipendere da Cantù su questo, perché Cantù dobbiamo riconoscere ha una tradizione storica in quell'ambito che è la sua. Non penso che sia un provincializzare Como ritenere di poter sfruttare un intervento che hanno già fatto altri. Noi piuttosto cerchiamo di avere strutture in primo luogo in tutti i quartieri e poi quelle delle scuole decenti e utilizzabili, con spogliatoi che siano praticabili e questo. E c'era un'altra cosa che volevo dirvi, quanti secondi ho, faccio in tempo a pensarci perché mi sta scappando via. Ah ecco, un altro esempio, mi viene in mente una possibilità per integrare e migliorare questi spazi. Un'operazione intelligente che è stata fatta a mio avviso negli anni passati è quella di via Giulini. È stato fatto un piano attuativo al piano seminterrato come standard urbanistico è stata realizzata una palestra che è decente, che può essere un minuto, no beh ma mi basta. Per esempio in altri interventi tipo quello che potrà essere pensato in Ticosa, anche lì la possibilità di individuare come standard urbanistici nuove strutture sportive di interesse cittadino è un'opzione interessante, anche perché sappiamo tutti che i soldi per fare cose nuove sarà difficile trovarne nei prossimi anni, per cui bisogna sfruttare anche queste opportunità, perché questi sono servizi comunque che qualificano una città in rapporto ad aspetti relativi allo sport che sappiamo tutti quale importanza abbia. All'ultimo tema, che è quello del turismo. E sappiamo tutti che Como è una città dal punto di vista ambientale molto attrattiva per i turisti, ma sono turisti soprattutto che hanno un'età media di 60 anni, in quanto sono turisti che possono permettersi un viaggio, diciamo, per persone benestanti, per la maggior parte francesi, tedeschi e inglesi, che vengono qui per godersi la tranquillità del lago. Ma per i giovani, che attrattive ci sono dal punto di vista turistico in questo luogo e Como? Che cosa può offrire ai giovani? Quali sono le vostre proposte per alimentare un nuovo turismo giovane? Sempre 4 minuti. Allora, io ho proprio recentemente finito di gestire un convegno a Como con 500-700 persone provenienti da tutto il mondo, per il quale ho lavorato 2 anni e mi sono scontrato evidentemente con i problemi che sono stati detti adesso. Como ha una capacità recettiva che tra l'altro è pressoché bloccata, nel senso che gli alberghi di Como lavorano con una clientela fissa, standardizzata, non sono in condizioni nemmeno di accogliere una variabile non considerata, e tra l'altro non nella stagione massima, per cui succede che se uno vuole organizzare una cosa significativa con un certo numero di persone a Como e vuole spendere ovviamente delle cifre contenute, deve andare altrove, cioè deve utilizzare strutture che stanno a erba piuttosto che fuori dalla città. Il camping sapete benissimo dov'è, ed è, come dire, una realtà che senza offesa per nessuno è davvero triste, riuso proprio l'aggettivo che abbiamo utilizzato. Abbiamo un ostello della gioventù che è sul retro del parco di Villa Olmo, che rimane una realtà dignitosa ma niente di più. Non esiste a Como nessuna promozione di un turismo alternativo fatto di strutture che abbiano una capacità recettiva semplificata, tipo bed and breakfast, che abbiano, come dire, prezzi che siano abbordabili a fasce economiche non particolarmente sostenute o al mondo giovanile. Tutto questo è da fare ex novo, cioè semplicemente non c'è. Dopodiché, quando uno si trova a Como, sa benissimo che la balneabilità del primo bacino è quella che è, ci sono gli accessi alla che sono in buona parte resi disponibili per strutture che sono, come dire, strutture collettive, ma sono strutture di tipo privatistico, e questi sono dei problemi. Sono dei problemi perché effettivamente una persona viene a Como, ma per esempio il lago lo può fruire soltanto spostandosi da un'altra parte. Dopodiché, ciò detto, il turismo resta un investimento. Resta un investimento, secondo me, legato, come si diceva prima, a una vocazione anche di natura culturale, relazionale, e io credo che da fuori, visto da lontano e non soltanto da lontano in Italia, ma Como sia una città, pensata e immaginata bella e accogliente, e coloro che ci vengono la trovano anche bella, più di quanto la vediamo noi. Poi se noi andiamo in giro per esempio per Piazza del Duomo, ci accorgiamo che alcune mattonelle di porfido della Piazza del Duomo sono state sostituite con del bitume in Piazza del Duomo. Andate a vedere, nessuno in casa propria sostituirebbe una mattonella del salotto con del bitume o semplicemente con del cemento. Questo delle piccole cose, come sono vissute le piccole cose che insieme fanno l'immagine della nostra città, resta una questione che ci riguarda. E come effettivamente è conosciuto in tutto il mondo. Mi è capitato in un albergo di dire, mi hanno chiesto da dove vieni, ho detto da Milano, mi chiedevano what, Milano? No. Poi ho detto come, subito l'hanno riconosciuta. In effetti è famosa in tutto il mondo, ma come è effettivamente una città turistica. Intanto io sgomberei il campo da questo equivoco. A Como la permanenza dura mediamente un giorno e mezzo, due massimo, quindi infatti le presenze a Como sono circa 600.000, per un totale di presenze fisiche di arrivo a Como di circa 300.000, quindi un giorno o due, quindi è un turismo mordi e fuggi. È una città molto bella, conosciuta, quindi ci arrivano. Io dico però è un numero insufficiente, stando ai grandi numeri dei turisti, che circa sono diversi milioni che arrivano in Italia, quindi di Como dovrebbe fare di più, ma Como fa sufficientemente. Io vi dico che il bilancio dedicato comunale al turismo, per circa il 94% sono spese correnti, cioè personale e cose di questo tipo. Solo il 6-7% sono spese in conto capitale, cioè per lo sviluppo del turismo. Sono andato a vedere nel concreto e ho visto che lo scorso anno furono stanziati in conto capitale, cioè per lo sviluppo del turismo, 500 euro. Sapete perché cosa? Poi ho chiesto per comprare un fax, che in realtà poi il fax non è stato neppure acquistato. Il nostro assessore al turismo si vanta che vi sono gli infopoint, quelle baracche che voi vedete vicino al Duomo, ma non sono sufficienti per sviluppare il turismo. Se voi andate in qualsiasi città europea dove il turismo è una cosa seria, pensiamo alle città per esempio della Costa Azzurra, vi è un centro di informazione turistica che entrarci dentro è già una cosa meravigliosa, perché offre un mare di servizi di cui il turista che arriva in città ha bisogno sul piano dell'informazione. Allora da questo punto di vista, non solo per i giovani ma per tutti, c'è da fare, perché se Como il suo futuro è il turismo, allora effettivamente deve diventare, come la cultura, un settore strategico di intervento. Non è sufficiente fare Expo, non è sufficiente fare per tre mesi le grandi mostre, bisogna fare di più e meglio. E noi su questo, io personalmente ho un programma molto serie strategico per quanto riguarda la cultura e il turismo. Grazie. Prima cosa, Marcello, io mai all'estero avrei detto che sono di Milano, Mi dovevano passare sul mio corpo per farmi dire che sono di Milano. Allora, turismo e giovani. Beh, io sono d'accordo con molte cose che ha detto Bruno riguardo alla possibilità di avere un'offerta turistica più differenziata. È vero quello che diceva lei nel porre la domanda, che gran parte delle strutture che ci sono a Como e anche sul lago, almeno nella parte sud del lago, sono strutture destinate ad una utenza particolare, sicuramente difficilmente giovanile. Quindi alcuni ampliamenti dell'offerta non richiederebbero nemmeno grandi costi, perché l'accenno che faceva Bruno ai bed and breakfast, per dire, potrebbero semplicemente voler dire un impegno da parte dell'amministrazione o delle strutture di settore per fare formazione, corsi di formazione per i cittadini che potrebbero potenzialmente essere in grado di offrire questa possibilità. Sentendo alcuni giovani mi dicono che anche l'ostello che c'è a Como è stato anche sistemato, però come tipo di offerta, in particolare in termini di orari di ingresso e di uscita, è un po' poco adatto ad un'utenza giovanile, nel senso che bisogna rientrare a mezzanotte, che bisogna uscire alle 10, quindi avere un tipo di gestione che dia una flessibilità diversa e sia più adatto ad un'utenza anche giovanile sarebbe importante, oltre che offrire spazi diversi. Dopodiché è importante anche, secondo me, tenere e valorizzare anche il cosiddetto turismo mordi e fuggi. Io è una battaglia ormai decennale, non capisco perché a Como non ci debba essere una piazzola per i camper. Non sarà il turismo che ti fa vivere come città turistica, ma tantissime persone che sono su altri itinerari potrebbero piacevolmente fermarsi 3 o 4 giorni a Como, potendo disporre di una struttura decente come c'è ormai da tutte le parti. Anche questa non mi sembra un intervento da sogno o da promesse irrealizzabili, quindi cose semplici ma fattibili per migliorare la fruibilità. Per l'appetibilità anche ai giovani, anche della zona lago, credo che una valorizzazione maggiore anche dell'area del Tempio Voltiano in termini di spettacoli, di manifestazioni e anche di concerti è abbastanza interessante. Finora mi sembra sia stata sfruttata molto poco. Per quanto riguarda gli infopoint a cui faceva cenno Marcello correttamente sulla necessità anche di fornire un'informazione diversa, ma non solo un punto di informazione qualificato e efficace in città, ormai anche qui in moltissimi posti il primo punto di informazione sulle attrattive turistiche o possibilità turistiche di una città è all'uscita dell'autostrada, perché uno esce dall'autostrada e è già messo in condizioni di sapere dove andare, cosa può trovare in quella città, per cui anche quella non è un'impresa titanica, ma è un punto di informazione turistica all'uscita dell'autostrada. Penso che anche Como possa permettersi di averlo, in modo che tante difficoltà e tanti problemi potrebbero essere superati anche con questa cosa semplicissima. Grazie. Allora, piccolissima integrazione, ma solo brevissima. Allora, noi abbiamo provato come a vendere tutto, a vendere il dal punto di vista turistico, il paesaggio, l'ambiente, il contesto, le grandi mostre. Abbiamo delle cose uniche a Como che nessuno ha provato mai a valorizzare e a vendere. Io non voglio fare un'indagine statistica qui dentro, ma quanti di voi sanno che cosa c'è nella loggia superiore del Tempio Voltiano? Rispondete in fretta perché abbiamo poco tempo. Nessuno ha mosso un dito, quindi vuol dire che nessuno dei presenti sa che cosa c'è nella loggia superiore del Tempio Voltiano. Andatela a vedere, lì c'è un rilancio di questo personaggio che è Alessandro Volta, cittadino, che è anche uno dei 40 decurioni della città, e da quel luogo vi ributtano nella città. Gaddi è stato capace, quando ha fatto la prima mostra, di dare il biglietto gratis per andare al Tempio Voltiano, in maniera tale che qualcuno, dopo essere stata la grande mostra, mettesse la zampa nel tempio, facesse il giro dicendo ci sono robi vecchie, adesso l'ho visto e non ci torno più. E questo è un modo non per adesso rendere prezioso 10 secondi per rendere finire. Prezioso questo oggetto, ma per buttarlo via. Noi ringraziamo i candidati che sono venuti qui oggi. Scusate, piccolo errore, mi sono dimenticato. È il freddo. Il freddo mi farà essere rapida, ma io mi riguardo in continuazione la domanda: come creare attrattive per i giovani sul versante turistico e chi si può coinvolgere per questa nuova offerta? Io penso che ancora una volta la risposta non sia una risposta specifica, il turismo per i giovani o le necessità dei giovani. Probabilmente è uno sviluppo integrato e armonico della città che riuscirebbe a rispondere meglio alle esigenze degli abitanti e automaticamente anche dei turisti e anche dei giovani turisti. Pensate alla bellezza non solo del lago, della città, ma anche delle colline che sono attorno. Ecco, dei percorsi, la realizzazione di parchi, dei percorsi che colleghino i parchi, delle piste ciclabili lungo il lago, sono tutte cose che farebbero vivere meglio noi e che sarebbero automaticamente anche un motivo di attrazione per i giovani. Io sono veramente molto contenta di vedere in giro in estate tantissima gente che pedala portandosi sulla bicicletta, tutti i bagagli. Ecco, Como ha anche la fortuna di essere su un percorso che unisce il nord all'Italia e questa abitudine, bellissima abitudine secondo me, dei giovani di muoversi in bicicletta, ad esempio, è una cosa che si sviluppa. Semplicemente sapere intercettare e dare risposta a questo bisogno, a queste nuove modalità di giovani e meno giovani, ripeto, sarebbe una cosa molto importante che farebbe, offrirebbe attrazioni turistiche ai giovani e nello stesso tempo ci farebbe muovere meglio anche noi. tante cose sono già state dette. Io aggiungo quella ad esempio di un campeggio. Como non ha un campeggio, è a Grandate, è assolutamente inaccessibile, e ancora una volta questo rimanda ad una visione complessiva. Dobbiamo avere delle postazioni, dei punti di accoglienza turistico, ma che poi dopo possano anche consentire a chi visita la città di muoversi con facilità e di vedere le bellezze che ci sono. Quindi il messaggio generale è lavorare per uno sviluppo armonico della nostra città, dove ci siano le bellezze naturali, le bellezze paesaggistiche, e ci siano anche delle occasioni per far conoscere di più il patrimonio artistico della nostra città. La città del razionalismo, e cito soltanto questa cosa, è un momento di richiamo e di fascino internazionale che penso noi sfruttiamo assolutamente in modo insufficiente. L'ostello è da valorizzare e da aprire più a lungo, magari in collegamento anche con quello di Menaggio. Noi allora ringraziamo i candidati alle primarie che sono venuti qui oggi: Bruno Magatti, Gisella Introzzi, Mario Lucini. No. E Marcello è intorno. Adesso, se qualcuno del pubblico ha qualche domanda da fare, possibilmente veloce, perché sennò rischiamo di morire tutti ibernati. Se c'è qualche domanda, battete un colpo. Certo, anche ecco, signora. Volevo sapere cosa ne pensate della recidività e strutture nautiche nel lago. Io mi occupo sia di vela come istruttore, che mi piace andare a vela, e noto che c'è sempre meno ricettività nelle strutture nautiche. Voi avete fatto l'esempio del camper, ma chi fa campeggio nautico, turismo nautico, credetemi, non è messo peggio. È messo meglio, anzi, sulla città e sul primo vaccino in generale, non che il secondo e il terzo vaccino stiano meglio. Io no, magari se lo può tenere un attimo, sinceramente, perché non ho vergogna di dire che non sono in grado di risponderle, ma mi piaceva capire meglio. Ovviamente stiamo parlando del comune di Como, quindi siamo più interessati, siccome lei dice anche a Como, sono più interessato a capire se effettivamente anche le strutture di attracco in gestione CSU che ci sono davanti a Piazza Cavour e zona Sant'Agostino sono anche quelle sottodimensionate rispetto alla domanda, perché francamente su Moltrasio, per dire, non lo so, ma non posso neanche intervenire, mentre su Como sarebbe interessante capire dalla sua esperienza diretta se c'è anche qui questo problema e cosa potrebbe suggerire. Sostanzialmente non è che mancano, non sono mai stati neanche, penso, presi in considerazione l'idea di avere degli ormeggi di transito che servono per l'appunto per la gente che si sposta in barca soprattutto durante il periodo estivo, ma anche durante il periodo invernale. Grazie. Io riguardo a questo argomento, mi pare, lei si riferisce anche al Porto Marina di Cernobbio di cui legge sui giornali, per esempio, risponderebbe alle sue esigenze quell'intervento? Comunque il discorso è proprio su chi ha un posto barca, ma su chi si muove nel lago, in quanto chiaramente chi ha il posto barca nel primo vaccino e nel suo porto non ha problemi, ma chi usa la barca come fosse un camper si trova davanti sempre dei muri. Comunque in questo momento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Como un regolamento che riguarda appunto il tratto delle sponde che vanno da Villa Olmo a Villa Geno, e lì gli attracchi sono stati unificati, cioè non è più possibile un attracco di tipo privato se non per un tra virgolette possibile carico, non ci dovrebbero più essere pontoni privatistici, insomma. E questa cosa nel regolamento, adesso ovviamente non l'abbiamo davanti, ma mi pare che preveda l'ipotesi di attracchi temporanei, quindi almeno, come dire, questo regolamento di base esiste e quindi su questo regolamento, nell'ipotesi che appunto questo tipo di turismo, come dire, nautico di cui lei parla, potesse avere un, credo che sia lo spazio per costruire lì dentro questo tipo di possibilità, anche se la gestione, come diceva giustamente lei, degli attracchi è in questo momento governata, diciamo, attraverso la struttura di CSU, che è una società, diciamo, di tipo comunale, che gestisce i rapporti, ma il regolamento è nostro, quindi questa cosa può essere facilmente recuperata qualora non ci fosse. Ci sono altre domande? Qualche... L'unica appassionata velista, posso rispondervi da appassionata velista? Non mi hanno sentito, io mi dichiaro l'appassionata velista, per cui capisco benissimo la sua richiesta. Penso che in parte dipenda dal fatto che Como, non essendo un punto molto di passaggio, cioè di transito, non ce n'è moltissimo, però questo non vuol dire che non debba essere favorito un sistema di ormeggio transitorio, sia per la vela sia per gli altri sport. Ci sono alcuni punti, e questo credo che sia stato un passo in avanti della nostra città, anche per la pratica di altri sport, la canoa, il kayak, eccetera, però nulla è pensato appunto in funzione del turista che o ci passa temporaneamente, oppure del turista che viene da fuori e può utilizzare queste strutture, che è una limitazione notevole allo sviluppo del turismo. Comunque la solidarietà della vedista volevo trasmetterla. Forse c'è un'ultima domanda, poi giuro che vi lasciamo andare, che fa freddo. Allora, come giovani per Como, nel momento in cui ci siamo messi a scrivere giù le domande, avevamo una domanda che non riuscivamo a far entrare in un discorso più ampio, ed è questa. Negli ultimi vent'anni non si è mai parlato di organizzazioni criminali operanti sul territorio comasco. Nelle ultime tre settimane sembra che l'andrangheta, la mafia e la camorra si siano trasferite nella provincia di Como. Il giornale La Provincia ha pubblicato dei titoli scandalistici immensi riguardo all'infiltrazione di stampo mafioso e andranghetista sul territorio. Volevo chiedere se, come reputate questo problema, se ha un peso effettivo secondo voi e come intendete operare nel caso veniate eletti come sindaci per debellare questo rischio. No, in effetti il fenomeno della presenza delle associazioni criminali sul territorio non è un'invenzione dei giornali, ma è stata confermata anche dalle autorità competenti, sia la Procura di Milano sia per quanto riguarda la Procura di Como. Noi abbiamo avuto di recente la famosa, ed è un fatto pubblico, lo possiamo dire, la vicenda della Perego. La Perego, questa grossa società di trasporti che si è trovata impegolata in questa vicenda di mafia, e peraltro ha riguardato anche materiale che è stato estratto dal terreno della Ticosa e pare anche che sia stato portato sotto alcuni siti, tra i quali anche il Novo Sant'Anna. Quindi il problema c'è, ed è un problema che non riguarda solo Como, ma riguarda praticamente diverse parti del paese. Ora è diventato anche un fenomeno che riguarda il nord Italia. Allora, in che modo questo può in qualche modo intercettare l'attività del comune? Io penso, e qui mi fermo, no, ritengo, che la cosa è la trasparenza, cioè in materia di appalti pubblici bisogna seguire in modo, in materia di nomine, in materia, cioè tutte le volte che il comune conferisce servizi, appalti, beni, deve seguire regole rigide di trasparenza. Le regole ci sono, bisogna osservarle, ma veramente osservarle e farle osservare. E già questo sarebbe, da questo punto di vista, un rimedio importante che consente il controllo del territorio ed evita, diciamo, queste presenze criminali di poter diciamo, entrare sul territorio o comunque proliferare. Hai evocato la Guardia di Finanza? No, grazie davvero per la domanda, anche perché è estremamente incoraggiante che i giovani esprimano sensibilità e attenzione per questo fenomeno, perché la sensibilità e l'attenzione dei cittadini è la prima garanzia per arginare questo fenomeno. Il fenomeno c'è indubbiamente ed è inevitabile che ci sia, essendo una società ricca e le organizzazioni criminali si infiltrano dove ci sono affari, dove ci sono soldi da spartire. Questo mi sembra importante ribadirlo, perché in molte occasioni soprattutto una parte politica si preoccupa quando sente parlare di mafia nei nostri territori come se fosse un giudizio negativo sui cittadini, sulla popolazione che ci abita. Non è questo, e dobbiamo sapere riconoscere e ammettere che questo fenomeno c'è. Il comune secondo me può fare molto, perché innanzitutto improprio, e nel senso che l'attenzione ai fatti che avvengono, non solo gli appalti, che sono una parte importante, non gli appalti, ma proprio anche i movimenti, il passaggio di proprietà di una serie di esercizi, sono indubbiamente un segnale che deve essere valutato con attenzione, e la possibilità di avere delle informazioni precise e puntuali sulla struttura societaria di chi vende, di chi acquista, sono delle disponibilità che appunto stanno nei registri della pubblica amministrazione e vanno letti e utilizzati con intelligenza. L'altra cosa da fare, e ritorno al punto di partenza, è sollecitare l'attenzione dei cittadini e la segnalazione, perché è solo attraverso il controllo del territorio, lo dico in termini non repressivi, ma il controllo, l'attenzione sul territorio che può essere esercitato da chi ci abita e vede giorno dopo giorno cosa avviene, che può arrivare il contrasto a questo fenomeno. Credo che ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro. Il tema della lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità mafiosa, competa ad altri rispetto alle amministrazioni, ma le amministrazioni devono fare il loro compito in un certo modo. Noi abbiamo dei servizi che sono messi a gara, e il modo con cui si arriva a determinare i contenuti di queste gare sono quelli che possono lasciare i margini per appunto inserimenti impropri oppure meno. Una delle questioni più serie è anche non lasciare sole le amministrazioni. Io da questo punto di vista insisto sul ruolo dei consigli comunali con la loro funzione di indirizzo. Ora, se i consigli comunali rinunciano ad essere gli organismi che determinano i principi e gli obiettivi dei servizi o delle cose che devono essere realizzate, tutto rimane invece assorbito dal sindaco e dalla giunta, la solitudine e la vulnerabilità risulta certamente più forte. Quando un assessore o un sindaco devono rispondere non solo ai loro elettori, ma a un indirizzo forte da parte dell'organo elettivo, e rispondere delle scelte che loro stanno facendo anche e prima di tutto a quest'organo, credo che si riduca di molto lo spazio, di condizionamento che questi organismi possono avere dall'esterno. Pensiamo alla raccolta dei rifiuti, pensiamo a sistemi appunto economici che si muovono in maniera interessata affinché le gare abbassino gli obiettivi livelli del contenuto. Quindi queste due questioni che caratterizzano le pubbliche amministrazioni, che sono la trasparenza e l'imparzialità nella valutazione delle offerte, credo che siano assolutamente determinanti. Sì, è evidente che ci sono, lo sappiamo perché ci sono state indagini della magistratura che hanno dimostrato una presenza radicata sui nostri territori, che come diceva prima Gisella sono anche territori ricchi che offrono possibilità di guadagni interessanti per organizzazioni malavitose, E il comune penso che, vabbè, ovviamente la trasparenza degli atti, la correttezza delle procedure amministrative sono una cosa fondamentale, ma indipendente anche da, cioè queste andrebbero comunque osservate e sicuramente non sono sufficienti per evitare il rischio di infiltrazioni, cioè chiaramente credo che queste organizzazioni, per come abbiamo letto in tanti documenti e in tanti libri, non vengono a partecipare agli appalti pubblici con scritto noi siamo l'Andrangheta, avranno tutti i documenti in ordine, quindi la difficoltà di individuare da parte dell'amministrazione infiltrazioni di questo tipo c'è, quindi non si può certamente superare o non doversi affidare anche agli organismi competenti. Dopodiché io oltre ad altre cose dico che si potrebbe tener presente qualcos'altro. Gli interventi edilizi ingenti che sono stati fatti sul nostro territorio con centinaia di investimenti ancora non rientrati fanno pensare che anche in tutte queste operazioni una quota di operazioni con denaro non perfettamente limpido ci possa essere. E forse un'altra cosa che può fare l'amministrazione senza dover necessariamente fare quello che non è in grado di fare, cioè individuare le imprese legate alle organizzazioni criminali, è quella magari di stare un po' più attenta a vendere il proprio territorio, perché questa è l'occasione migliore che aspettano organizzazioni di questo tipo per operazioni di investimento e di riciclaggio, per cui anche una corretta gestione del territorio è in grado di preservare la nostra società da infiltrazioni di questo tipo. Va bene, adesso questo bel momento di incontro e dialogo e di conoscenza dei candidati è giunto al termine. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno avuto la tempra di stare qua e di resistere un po' alla bassa temperatura. Il gruppo dei giovani per Como ricordo che comunque è un gruppo aperto, per cui ovviamente a carattere giovanile, per cui tutti quelli tra i 17 e i 30 anni che fossero interessati a spendersi, a investire del tempo e delle energie per un progetto di rinnovamento politico della città di Como sono assolutamente accetti all'interno del nostro gruppo per poter coordinare altri eventi di questo tipo. Ora ci sarà un altro evento martedì alle 20.30 di questo tipo, alle 20.45 all'Arci, in cui interverranno ancora i candidati. Detto questo, grazie mille della partecipazione, buona serata.